voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Enrico Zoppas e San Benedetto, storia di acqua ed innovazioni, di Alessandra Scaglioni. Il marchio dell'impresa di cui parliamo questa settimana è noto. San Benedetto, settore acque minerali e bibite analcoliche. 712 milioni di euro di fatturato, 17 milioni di bottiglie prodotte al giorno. È noto anche il nome della famiglia imprenditrice, Zoppas, che ricorda un'altra industria italiana, elettrodomestici. Quello che vi raccontiamo in questa puntata è come San Benedetto sia cresciuta e sia diventata una realtà internazionale grazie ad alcune scelte strategiche, molta tecnologia e un obiettivo di sostenibilità. Beh, nacque San Benedetto, è stata fondata nel 1956 dalla volontà di due famiglie, famiglia Zoppas, di cui io sono discendente, e da la famiglia Scatolin, che era proprietaria del terreno in cui c'era la fonte in questione. È una fonte storica perché riportata negli annali della Repubblica Veneta nel Settecento, dove si diceva che era un'acqua miracolosa detta fonte della salute. Anni 50, la famiglia Zoppas, i genitori, assieme a un'altra famiglia, decide di entrare nel mercato delle acque minerali, che allora era molto diverso, più piccolo. Io ricordo che l'acqua minerale nelle nostre città si andava a prenderla addirittura al bar e si parlava gran parte di acqua gasata che serviva anche come mixer. Quindi si è deciso di fare degli investimenti che per allora erano notevoli e anche di avanguardia, per entrare nel mercato e per cominciare una presenza significativa nel territorio. Noi eravamo piccolini, quindi sopravvivamo proprio perché eravamo talmente piccoli che questi grossi colossi non si preoccupavano più di tanto. Il nome Zoppas è legato all'azienda di elettrodomestici che era stata fondata dai genitori ed è stata poi ceduta negli anni 70. Ma le competenze tecnologiche sviluppate in Zoppas hanno segnato la strada anche per San Benedetto. I miei genitori erano fondatori di un'azienda di elettrodomestici che indubbiamente negli anni trascorsi aveva segnato una grossa rivoluzione industriale, soprattutto nel Veneto, insieme ad altri chiaramente. Quindi con un background tecnologico che era notevole, quindi sicuramente di questo i nostri competitor di allora non davano un significato importante. Significato che poi invece si è sviluppato con grossa ingruenza quando abbiamo deciso di prendere una strategia nostra di sviluppo nel mercato che era ovviamente completamente innovativa, soprattutto diversa dai nostri competitor, per cui noi siamo stati i primi ad affrontare il mercato della distribuzione moderna, quella che oggi si chiama i supermercati, che allora dalle grandi marche venivano sdobbati, perlomeno in un rapporto diretto. Negli anni 70 muore il padre e la gestione dell'azienda passa a Enrico Zoppas. San Benedetto è una realtà ancora a livello regionale, fattura 1 miliardo e 700 milioni di lire. Deve affrontare alcune difficoltà e certo impensierisce la concorrenza. Ma succede qualcosa. L'azienda prende una strada nuova. Lì è successa una grossa rivoluzione fatta da parte nostra, per cui allora il mondo era gestito e regolato dal Vetro Rendere, che quindi aveva un controllo territoriale molto forte e rappresentava anche un grosso handicap per la distribuzione moderna, perché non aveva la capacità di stoccare le casse, le bottiglie, quindi questo gli creava dei grossi imbarazzi nella gestione. Allora l'idea è nata di dedicare il Vetro Rendere, diciamo, principalmente alla ristorazione e di dare invece ai mercati moderni, di affrontare i mercati moderni con un rapporto diretto con prodotti a perdere, allora c'era il vetro, con vetro a perdere. Indubbiamente l'aggressività che aveva l'azienda, la capacità e l'efficienza che aveva ha permesso all'azienda di raggiungere una distribuzione nazionale in pochissimo tempo. San Benedetto conquista un posto significativo nel mercato della grande distribuzione, si costruisce l'immagine di azienda innovativa e alla fine degli anni 70 c'è un'altra novità. Un'altra decisione che è stata storica per la nostra azienda è quella di passare al PET. Noi siamo stati la prima azienda a produrre il PET per l'acqua minerale in Italia. e anche poi per le bibite. Questo ovviamente ha rafforzato molto in modo sinergico la strategia che noi prima portavamo col vetro a perdere, perché davamo un miglior servizio al consumatore, perché l'imballo pesava molto poco ed era infrangibile, quindi facilmente stoccabile nella macchina, si portava anche al quinto piano con molto meno sforzo, non esplodeva, non si rompeva, quindi anche per la distribuzione, che era terrorizzata dagli scoppi delle bottiglie d'acqua che magari erano stoccati sopra lo zucchero, ha visto questa nuova tecnologia come sicuramente un fatto determinante per ulteriore sviluppo dell'azienda. È un momento di crescita molto forte, con la conquista di nuovi mercati. Nel frattempo arriva un accordo con una multinazionale che produce acqua tonica. I punti di forza delle due aziende si uniscono. Nel 1983 l'azienda distribuisce e commercializza il marchio Schweppes in Italia, mettendo a disposizione risorse distributive e tecnologiche e imparando gli aspetti di marketing che all'azienda ancora mancavano. 3 anni più tardi arriva l'accordo per la distribuzione del marchio Pepsi Cola, distribuzione che sale dal 10-15% al 90%. A questo punto, con un paniere di grande interesse per la grande distribuzione, arriva per San Benedetto anche l'attenzione della concorrenza. Ma siamo alla fine degli anni Ottanta e qualcos'altro sta per succedere. In quel momento noi abbiamo sviluppato altre tipologie di mercato. Il primo che abbiamo sviluppato, che ci ha garantito poi una crescita enorme negli anni 90, è stato il marchio Guizza, che noi avevamo dedicato soprattutto ai nascenti discount. Abbiamo avuto un indice di sviluppo per gli ulteriori 8-9 anni di una percentuale di più o meno del 20%, quindi ha funzionato. Ma la strategia della nostra azienda è proprio questa duttilità, quindi non essere pesantemente impegnata in un prodotto per cui siamo attaccabili, ma abbiamo la capacità, proprio per il background tecnologico, di generare in continuazione delle innovazioni. E sempre dalla tecnologia arriva un'altra innovazione. Verso la fine degli anni 90 noi abbiamo fatto un grosso passo di sviluppo tecnologico, per cui ci siamo autoprodotti linee, che si chiama linea di assettico, per cui si potevano imbottigliare prodotti senza conservanti, senza gas, chiaramente, che è un conservante, per esemplificare il tè o succhi di frutta, ad altissima velocità. Quindi siamo gli unici al mondo di disporre di una tecnologia di questo genere, che è sviluppata da noi e dai nostri consociate. Noi siamo anche la famiglia proprietaria anche di un gruppo che si chiama SIPA, che si è sviluppato in parallelo con noi ed è impegnato proprio nell'ambito della produzione di impianti per imbottigliamento e produzione di bottiglie di plastica e anche di vetro. Anche le multinazionali se ne accorgono. Arriva la Coca-Cola. Per cui il buon presidente della Coca-Cola, allora Doug Taff, io ricordo, ci ha chiesto di incontrarci, è venuto a Scorzè, ricordo ancora perfettamente, è venuto nel nostro ufficio, che non era un ufficio mega galattico, ma alla veneta della gente che si tira sulle maniche, e ci ha detto: ma come possiamo collaborare insieme? C'è qualcosa che possiamo collaborare? Sì, dico, noi possiamo collaborare in molte cose. Ovviamente quello che noi possiamo offrire, lo sapete, è lo sviluppo tecnologico di alcuni prodotti di cui per voi è abbastanza difficoltoso poterli raggiungere. E da quel momento abbiamo cominciato a portare avanti un progetto che era quello di Powered. Il primo progetto che abbiamo fatto con loro era Powered. Noi avevamo sviluppato poi anche il famoso tappo push and pull, e eravamo gli unici che siamo riusciti a gestirlo in modo asettico. Oggi San Benedetto è la prima società a capitale interamente italiano nel mercato delle acque e delle bibite analcoliche. I marchi del gruppo San Benedetto, fra acqua, tè e bibite, sono una decina. 1800 dipendenti, 4 stabilimenti. Oltre a quello storico di Scorzè, Venezia, c'è Popoli, Pescara, Donato, Biella e Nepi, Viterbo. E dentro il 2014 ci sarà anche il 5° a Vigianello, in Lucania. Esporta in 80 paesi. Ha stabilimenti di produzione e imbottigliamento in Spagna, in Portogallo, Polonia, Ungheria. È presente anche in Messico e nella Repubblica Dominicana. Ciò di cui Enrico Zoppas va più fiero è il fatto di essere stato il primo in Italia a tracciare l'impronta di sostenibilità dell'azienda e da lì ad aver fatto partire un altro capitolo della storia. Questo aspetto tecnologico ci ha portato proprio a chiederci come avremmo potuto utilizzarlo nel modo migliore e quali sarebbero state le aspettative dei consumatori e il modo di vita della socialità del nostro paese, che stili di vita avrebbe avuto e quali sarebbero stati i valori più importanti, come noi avremmo potuto mettere a disposizione tutto questo, la nostra esperienza, know-how, a fronte di un diverso modo di vivere. Quindi la prima scelta, diciamo, epocale in questi anni è stato quello di vedere di poterci impegnare nel mondo della sostenibilità. Quindi devo dire che in quel momento tutti ne parlavamo, ma nessuno sapeva cosa significasse e cosa fare in concreto. Ecco, la fortuna, una grossa fortuna che devo dire io ho avuto, è di incontrare l'allora direttore del Ministero dell'Ambiente Clini, che è venuto a portarci, a farci vedere un progetto che lui aveva relativamente alla generazione del CO2 e alla relativa compensazione. Nel concreto si sono modificati gli obiettivi e i processi di produzione in modo misurabile. Stiamo riorganizzando e stiamo soprattutto focalizzando la tecnologia verso questa direzione. Quindi noi oggi abbiamo le bottiglie più leggere che ci siano nel mercato, quindi con maggior contenuto di energia e anche di generazione di CO2. Tenga presente che proprio dallo studio che abbiamo fatto insieme con il Ministero è risultato che il peso della bottiglia è il 50% della generazione del CO2 nel processo, molto di più anche del trasporto. Quindi, conoscendo dove erano i punti, diciamo, più sostanziali, noi abbiamo continuato a sviluppare bottiglie molto più leggere, con processi produttivi che avrebbero richiesto molto meno energia, quindi con recuperi di energia, che va ovviamente poi anche abbiamo investito nel solare, abbiamo investito in tantissime cose proprio per creare non solo un saving, che ovviamente è importante, ma proprio per creare una cultura che fosse legata a questo, allo spirito e soprattutto alla nostra strategia, per cui la sostenibilità è il valore più importante su cui noi dobbiamo focalizzarci e che rappresenterà il nostro futuro. Per il futuro la direzione è segnata come obiettivi e come valori di riferimento. Per la prima volta noi siamo stati i primi a aver coscienza di quello che era il nostro debito, diciamo, verso l'ambiente. Abbiamo segnato una strada che indubbiamente oggi ha molti proseliti. Questo mi ha dato immediatamente la sensazione di lavorare verso un mondo qualitativo che mi riportava ai primi anni, gli anni 60, in cui c'era quel fervore, quella voglia di arrivare a industrializzare allora il paese. Oggi c'è la voglia invece di ritornare a dei valori che abbiamo abbondantemente perso. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.